Come si strutturerà? Io penso che almeno il mio desiderio è quello, non certo di fare una lezione o cose di questo genere su Fabrizio De André, anche perché non ne avrei i titoli. Mi piacerebbe appunto che nascesse così un colloquio con le persone che ci saranno attorno appunto alla figura di Fabrizio De André, che non sarà tanto sulle canzoni, cioè specificatamente a parlare delle canzoni nel dettaglio, ma su tutto quello che ha ruotato attorno alla poetica di Fabrizio De André, quindi lo sguardo politico, lo sguardo sociale. Mi auguro che sia così, cioè nel senso che credo che soprattutto poi chi non ha conosciuto Fabrizio De André mentre era in vita, non lo ha seguito mentre era in vita, magari fa fatica anche a capire come mai Fabrizio De André, in fondo scomparso da 20 anni, sia ancora una figura così importante, una figura così di riferimento per tantissimi. Sì, un ruolo importante che sicuramente appunto ha a che fare con le parole proprio di De André, con la capacità anche, però probabilmente appunto parlando del suo ruolo, dello sguardo politico diciamo, ma anche della vita proprio del cantautore genovese, di questo sguardo sempre rivolto alle minoranze insomma. Sì, è stata una scelta che Fabrizio De André ha fatto sin dagli esordi della sua attività artistica. È stata una scelta particolare per chi come lui arrivava da una famiglia, cioè era nato in una famiglia borghese, aveva fatto una scelta molto particolare di uscire bene o male dai canoni che della sua educazione, del suo mondo di riferimento, per guardare proprio quel mondo al quale invece appunto la borghesia, l'alta borghesia fa molto fatica a guardare, se non in una chiave molto di rifiuto, di disprezzo. Quindi il percorso di Fabrizio nasce osservando quelli che sono, che ne so, i soggetti, le vittime del mondo che gli ruota accanto, quindi nei vicoli di Genova, ma poi pian piano si allarga, così come si amplia il suo sguardo politico. Quindi allora a quel punto diventano le minoranze sia culturali, le minoranze sessuali, e lui cerca non di ovviamente di insegnare nulla, cerca semplicemente di dare voce a queste minoranze, visto che difficilmente queste minoranze trovavano voce nel mainstream quotidiano, e lui facendo così praticamente allargava il suo sguardo allo sguardo di tutti coloro i quali lo ascoltavano, lo seguivano. Per dire, per quello che mi riguarda, per me è stata una sorta di educazione culturale, politica e sentimentale ascoltare Fabrizio De André a partire dall'età di 11 anni e per poi proseguire fino adesso. Ancora oggi ovviamente ascolto Fabrizio De André, però questa sua voce, queste sue parole, questo suo sguardo hanno formato il mio sguardo, la mia lettura politica della realtà e un pochino tutto il resto. È stata una sorta di educazione sentimentale, ecco. E appunto dici hanno formato il tuo sguardo e effettivamente poi ti hanno portato anche a pubblicare diversi libri su Fabrizio De André e anche un documentario che sarà proiettato prima poi di questo dialogo. Sì, io sono contento di una cosa, cioè che le coincidenze, non tanto la casualità, le coincidenze hanno fatto sì che a partire dalla metà degli anni 90, bene o male, ma proprio per coincidenze casuali, mi sono trovato così a occuparmi poi non solo personalmente ascoltando Fabrizio De André, ma anche a ragionare un po' sulla sua poetica, e questo sì mi ha portato poi nel corso del tempo a fare qualche lavoro, tra cui appunto anche a collaborare in qualità di coregista al video che si vedrà Faber, che è un video particolare, un video su Fabrizio De André, ma dove Fabrizio De André appare solo in vecchie fotografie in bianco e nero, cioè perché noi, sia io che Bruno Bigoni, che l'altro regista con cui abbiamo realizzato questo lavoro, abbiamo voluto rispettare fino in fondo quella che era un po' una volontà di Fabrizio De André, ovvero sia quella di non apparire in immagini se non per necessità discografiche. E siccome appunto il lavoro è nato dopo la scomparsa di Fabrizio De André, ci sarebbe sembrato brutto anche andare alla ricerca di materiali d'archivio o cose di questo genere, che ci sono anche non solo di concerti ma di interviste o altro, ci sarebbe sembrato brutto una mancanza di rispetto. È invece un lavoro che ruota attorno agli amici, e neanche lì non gli amici quelli ufficiali che hanno fatto sempre notizia, da Fernanda Tivano, Paolo Villaggio e altri, salvo Mauro Pagani della PFM,